vedrai che nel tempo e sopra il tuo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ci aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato da te. Empezaba la fiesta y a ti te subió a la cabeza, a mí nada me interesaba, mis ojos ya buscaban solo a ti. Después una excusa busqué y quise acompañarte para quedar a solas tú y yo, tal vez tan solo en mí pensé cómo eres, yo te amé por vez primera y última. Champán por el dulce secreto que fue nuestro amor prohibido, pero hoy quedan solo en la copa recuerdos que quisiera abandonar. Lo sé, me miras y ya sé que es una tontería brindar si no se tiene compañía. Ya ves, celebro el olvido de aquel amor perdido. Camarero, champagne. Bye.

qui se parlent, ceux qui s'aiment. La vida al fin. Tout doucement, sans faire de bruit. Non séparera. Et la mer efface sur le sang. Je también te amé. Les pas des amants désunis. Con suavidad. Mas la vida al fin. No se para sin más rumor con suavidad y la mar borrará de que dio nuestro I'll be yours through all

anche una frase fra le tante che si dicono. Rimugino parole estremamente intelligenti come piacciono a me. E aspetto che la sera mi procuri l'atmosfera per poi offrirle a te. Vuoi che sia la luna il tuo profumo che io sento vicinissimo? E inevitabilmente mi impappino in qualche stupido ti amo. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, los días. Y yo desesperando. Quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que me preguntas, que cuándo, cómo que y cuándo, dónde, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Thank you. ma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fare di sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che puoi e un friccico di luna tutto per noi. Fai e senti che è quasi primavera. Mannali meglio grilli per fa cri cri. Prestami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma, reggimi il moccolo stasera. Roma, non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fammi dire no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai. Nascondemi la luna se non so guai. Fammi scordare che è quasi primavera. Tiemme una mano in testa per dire no. Smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma, non fa la stupida stasera. Scorda che è quasi primavera. Tiemme una mano in testa pendite no. Smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma, non fa la stupida stasera. Roma, non fa la stupida stasera. Roma, non fa la stupida stasera. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. So che te ne vai, me lo dico con gli occhi tuoi, eppure è stato così dolce il tempo con te. Tu ti porti via tutta la mia felicità, hai già deciso e così sia, vai con l'estate, ma settembre già, domani tutto sembrerà normale, ma forse non ci sarà neppure amore mio. Tempo per abbracciarti ancora e dirti addio. No, non piangerò, io sarò forte, vedrai.